Capitolo 33esimo. I figli del mare. Le 50 Nereidi, gentili e benefiche assistenti della dea del mare Teti, sono sirene, figlie della ninfa Doride e di Nereo, un profetico vecchio marino che ha il potere della metamorfosi. I Forcidi, loro cugini, figli di Ceto e di Farcia, un altro saggio vecchio del mare, sono Ladone, Echidna e le tre Gorgoni che abitano in Libia. Le tre Graie e, secondo taluni, anche le tre Esperidi. Le Gorgoni si chiamavano Stimo, Euriale e Medusa, un tempo tutte e tre bellissime. Ma una notte Medusa si giacque con Posidone e Atena, infuriata perché si erano accoppiati in uno dei suoi templi, tramutò la Gorgone in un mostro alato con occhi fiammeggianti, denti lunghissimi dai quali sporgeva la lingua, unghielli di bronzo e capelli di serpenti. Il suo sguardo faceva impietrire gli uomini. Quando più tardi Perseo decapitò Medusa e i figli di Posidone, Crisaure e Pegaso balzarono fuori dal suo cadavere, Atena ne applicò la testa alla sua egida, ma altri dicono che quell'egida fu fatta con la pelle di Medusa, che Atena le strappò di dosso. Le Graie sono bianche di carnagione e simili a cigni, ma con i capelli grigi fin dalla nascita e un solo dente e un solo occhio in comune. Si chiamano Enio, Penfredo e Dino. Le tre Esperidi, chiamate Espera, Egle ed Eriteide, vivono nel lontano occidente, nel giardino che la madre terra donò a Era. Taluni le dicono figlie della notte, altri di Atrante e di Esperide, figlia di Espero. Esse cantano dolcemente. Echidna era per metà una bellissima donna, per metà un serpente dalla pelle maculata. Viveva un tempo in una grotta profonda tra gli arimi. Mangiava uomini crudi e procreò mostri orrendi a suo marito Tifone. Ma Argo, dai 100 occhi, la uccise nel sonno. Ladone era tutta serpente, benché avesse il dono di parlare un linguaggio umano, e custodì le mele d'oro delle Esperidi finché Eracle la uccise con una freccia. Nereo, Forcio, Taumante, Euribia e Ceto erano tutti figli del Ponto e della Madre Terra. Ecco perché i Forcidi e le Nereidi si dicono cugini delle Arpie. Costoro sono le alate figlie di Taumante e della ninfa oceanica Elettra, che agguantano i criminali perché siano puniti dalle Erinni e vivono in una grotta nell'isola di Creta. Pare che l'appellativo della dea Luna Eurinome, Ampio Regnante o Ampio Vagante, la proclamasse onnipotente nel cielo e nella terra. L'appellativo Euribia, dalla forza immane, signora del mare, Euridice, ampia giustizia, signora dell'oltretomba, che essa stringeva nelle sue spire di serpente. Sacrifici umani maschili erano offerti alla dea come Euridice, e le vittime morivano per il morso di una vipera. La morte di Echidna, per mano di Argo, si ricollega probabilmente alla soppressione del culto argivo della dea serpente. Suo fratello Ladone è il serpente oracolare che alberga in ogni paradiso, le spire avvolte attorno all'albero di mele. Altri appellativi marini di Euribia erano Teti, colei che dispone, o la sua variante Tetide, Ceto, mostro marino che corrispondeva all'ebraico Rahab o al babilonese Tiamat, Nereide, dea dell'elemento umido, Elettra, patrona dell'ambra, un prodotto del mare molto apprezzato dagli antichi, Taumante, la meravigliosa, e Doride, liberale. Nereo, alias Proteo, primo uomo, il profetico vecchio marino, che prese il nome da Nereide e non viceversa, pare fosse un re sacro, datore di oracoli, sepolto su un'isola costiera. In una pittura vascolare primitiva, egli è raffigurato con la coda di pesce e un leone, un cervo e una vipera che gli escono dal corpo. Anche il Proteo dell'Odissea si trasforma per simboleggiare le stagioni che trascorrevano dalla nascita alla morte del re. Pare che le 50 Nereidi fossero un collegio di 50 sacerdotesse della luna, i cui magici riti assicuravano pesca abbondante. Le Gorgoni rappresentavano la triplice dea e portavano maschere profilattiche con occhi fiammeggianti e la lingua che sporgeva fra i denti lunghissimi per spaventare gli estranei e allontanarli dai loro misteri. Gli Omeridi conoscevano soltanto una Gorgone che vagava come ombra nel Tartaro e la cui testa, che terrorizzò Odisseo, spiccava sull'egida di Atena, indubbiamente per ammonire la gente a non volere scrutare nei divini misteri nascosti dietro l'egida stessa. I fornai greci usavano dipingere una testa di gorgone sui loro forni per impedire ai curiosi di aprire lo sportello, rischiando così di rovinare il pane in cottura con un soffio improvviso di aria fresca. I nomi delle gorgoni, Sino, Forte, Euriale, Ampio Vagante e Medusa, Astuta, sono appellativi della dea Luna. Gli orfici chiamavano testa di Medusa la faccia della Luna. La leggenda di Posidone che genera Pegaso in Medusa ricorda la leggenda di Posidone che genera Arione in Demetra, trasformatasi in giumenta, e la conseguente collera della dea. Ambedue i miti descrivono come gli elleni devoti a Posidone sposassero a forza le sacerdotesse della Luna senza lasciarsi impaurire dalle loro maschere di Medusa e assumessero il controllo dei riti propiziatori di pioggia e del culto del cavallo sacro. Ma una maschera di Demetra si conservava ancora in una cassa di pietra a Feneo e il sacerdote di Demetra se la poneva sul volto per compiere la cerimonia in cui si allontanavano gli spiriti maligni con delle verghe. Crisaure era il segno del primo quarto di luna di Demetra, cioè del falcetto d'oro. Le compagne della dea lo reggevano in mano quando lo rappresentavano nelle cerimonie. Atena, in questa versione, è la collaboratrice di Zeus, rinata dalla sua testa e traditrice dell'antica religione. Le tre arpie, considerate da Omero come personificazione dei venti di tempesta, rappresentavano la Atena primitiva, cioè la triplice dea nella sua veste di distruggitrice. Tali erano anche le graie o le grigie, come dimostrano i loro nomi Enio, guerresca, Penfredo, vespa, e Dino, terribile. La leggenda del loro unico occhio e del loro unico dente deriva dalla interpretazione erronea di qualche dipinto sacro, e il cigno, nella mitologia europea, è l'uccello della morte. Forco, forma maschile di Porcide, la dea in veste di mietitrice che divora i cadaveri, riappare nella mitologia latina come orco, un appellativo di Ade, e come porco, maiale. Le gorgoni e le grigie erano chiamate Porcidi perché la profanazione dei misteri della dea comportava la pena capitale, ma la saggezza profetica di Forco si riferisce probabilmente a un oracolo in rapporto alla mietitura. I nomi delle Esperidi, descritte come figlie di Ceto e Forco o della Notte o di Atlante, il titano che regge il cielo nell'estremo occidente, si riferiscono al tramonto. A quell'ora il cielo si tinge di verde, di giallo e di rosso e ricorda un albero di mele carico di frutti. E il sole, tagliato dalla linea dell'orizzonte come una mela purpurea, cala verso la morte nelle onde dell'occidente. Quando il sole è tramontato appare Espero. Questa stella era sacra alla dea dell'amore Afrodite e la mela era il dono di cui si servivano le sue sacerdotesse per allettare il re sacro che uccidevano cantandogli canzoni d'amore. Se si dimezza trasversalmente una mela, si può vedere in ogni metà una stella a cinque punte.